Italia in controluce. Buongiorno, oggi è il 16 di aprile e Italia in controluce vi racconta i fatti, le storie della cronaca italiana. Il commissario Montalbano, la cultura della legalità, la lotta alla mafia, il ricordo di Antonino Caponnetto e di Paolo Borsellino. Si muove proprio intorno a questa trama narrativa l'intervista di Daniela Binello allo scrittore Andrea Camilleri. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastoni e tira fuori di denti. Montalbano, me lo spiega come fa a farsi venire certe idee? Signor Questore, se lei si riferisce al cosiddetto sequestro Pigarella... Me ne fotto del sequestro Pigarella. Me lo spiega perché è andato a rompere i coglioni a quelli della buona volontà? Vuole degnarsi di dirmelo? Lei lo sa quelli a chi hanno dietro? No, ma me l'immagino. L'ha chiamato Monsignor Pisicchio. E non solo. Anche il prefetto, il vicepresidente della regione, l'assessore provinciale all'assistenza sociale, quello comunale. Lei ha messo il dito in un vero vespaio, lo ha capito? Signor Questore, io quando ci ho messo il dito non lo sapevo che sarebbe diventato un vespaio. Io mi sono limitato a fare alcune domande a una persona che tra l'altro mi ha presentato Monsignor Pisicchio, un tale Cavaliere Piro. Il quale sostiene che lei ha usato un tono insultante e inquisitorio nel corso della sua eruzione. Ma quale eruzione? Ma se è lui che mi ha dato l'appuntamento! Vabbè, comunque sia. Perché è andato a scomodare questa associazione? È una gran bella rogna, lo sa. Ho capito, signor Questore, però qui da noi per qualunque indagine ti imbatti sempre in un onorevole, un prete, un mafioso che si mettono a fare la catena di Sant'Antonio per proteggere il probabile indagato. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Quanto si secca il commissario Montalbano quando viene convocato dal questore. Montalbano cerca verità e legalità, cioè le cose più difficili del mondo. E il suo inventore, Andrea Camilleri, la pensa esattamente così. Io credo che in passato l'assenza dello Stato abbia creato delle supplenze estremamente pericolose e che quindi il continuo, costante ritorno e pratica della legalità sia l'unica strada possibile, percorribile, perché in Sicilia si vengano, come posso dire, a perdere certe situazioni che francamente non fanno onore alla Sicilia stessa. La litigiosità però è un po' insita nel carattere siciliano, forse per via del senso dell'onore e anche a causa di un rapporto complicato fra i siciliani e lo Stato, come lei ha appena detto. Sì. La intriga tutto questo? Ma la litigiosità in sé è una cosa molto diffusa in Italia e lo si vede dal numero veramente spaventoso di cause civili e penali. Credo che ci sia un addensamento maggiore in Sicilia, ma forse per cause di convivenza stretta, in fondo la Sicilia è un'isola e si finisce col conoscerci, amarci e odiarci un po' tutti. Mi intriga invece certe situazioni di contrapposizione che hanno però sempre un carattere di non banalità, che contengano in sé un germe di follia. Queste mi interessano assai di più. Mi potrebbe fare un esempio? La litigiosità che può nascere fra due contadini per una storia di confine è un fatto banale che non mi interessa, ma quando si tratta di due fratelli e uno si finge morto per mandare l'altro fratello in galera, questo a me francamente mi interessa assai di più. Non le pare che questo continuo spostamento del confine tra legalità e illegalità sia spiegabile come nostro costume sociale, non solo siciliano? Ma una volta Leonardo Sciascia usò un'espressione splendida, la palma va a nord. Aveva letto da qualche parte che proprio la palma, l'albero, si spostava non so quanti centimetri l'anno verso il nord. Allora ne fece una metafora della mafia. Credo che si sia diffusa un po' dovunque in Italia. Vuoi l'atteggiamento mafioso, vuoi l'atteggiamento di illegalità, vuoi l'atteggiamento di poco rispetto per quelle che sono le leggi dello Stato. Credo che oggi noi già l'Italia tenda a bypassare le regole del vivere, che possono essere tanto dai limiti di velocità quanto alle grosse società che fanno imbrogli. Ecco, credo che sia una situazione diffusa che naturalmente non fa bene a nessuno. Giustizia e morale sono due concetti che vanno spesso a braccetto, però mentre la giustizia è un valore di civiltà, la morale è molto più sovente e pelosa e anche un po' campata in aria. Il suo Montalbano è un esempio di uomo della giustizia che però della morale si cura fino a un certo punto. Sì, questa è un'osservazione molto giusta. È un uomo che più che la giustizia è un uomo che persegue una verità, che non è coincidente per forza con la verità ufficiale, tantomeno con la verità processuale. Mi sembra che per un soffio lei non abbia conosciuto di persona Antonino Caponnetto. Lei raccontò, anzi scrisse, di questa mancata conoscenza personale con Caponnetto. Lo racconto volentieri. Naturalmente io sapevo che era Caponnetto, ne avevo ammirato l'opera, la costruzione del pool e tutto. Quando lui era già in pensione, un giorno ricevetti sulla segreteria telefonica una telefonata esattamente così concepita. Sono un ex magistrato che ha operato in Sicilia, mi chiamo Caponnetto, vorrei mettermi in contatto con lei. E si figuri, e mi lascio il numero di telefono, si figuri se io non ho telefonato subito. E quindi ci siamo telefonati diverse volte ripromettendoci sempre di trovare il modo di incontrarci. Io gli ho mandato i miei libri, lui mi ha risposto una bellissima lettera, tra l'altro a proposito di un mio saggio su Pirandello, che l'avrebbe messo accanto a un libro di Pirandello che gli aveva regalato suo padre. Purtroppo l'occasione di vederci, di incontrarci, non è mai avvenuta. Immagino che lei, professore, abbia ammirato, come quasi tutti gli italiani vorrei dire, il lavoro che fece il pool. E per quello che riguarda l'oggi, qual è il suo pensiero? Ma io credo che la dissoluzione del metodo del lavoro per pool sia stato un errore molto serio e molto grave. Però voglio dire che in Sicilia ci sono da Ingroia a Scarpinato, insomma, dei magistrati di grosso valore, quelli cresciuti alla scuola di Caselli e no, insomma, che fanno il loro lavoro con ottimi risultati. È tutto per la prima edizione di Italia in Controluce per quest'oggi 16 aprile. L'archivio di tutte le puntate sul nostro sito radio24.it. per comunicare con noi, Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, la nostra mail controluce@radio24.it. Oggi torniamo alle 13:30 naturalmente su Radio 24.